Vai Flavie, mannala. Vuoi conoscermi davvero? Smetti di parlare e poi alza lo stereo. Su, vuoi la verità? C'è un pacco pieno. Fin quando sto nell'andilà, dentro un sacco nero. È tutto vero? Frate, svegliati che è tutto vero. È tutto vero? Posso restare sincero pure se questi mi guardano male. Perché sono come i granchi che guardano il mare. E noi non saremo mai stanchi di farli notare. Che sono solamente pazzi nel particolare. Bravi a farli crollare. Benvenuto nella classe mia. Voce piano, sit, bass e batteria. Scrivere di me e parlare ma non me ne vado via. Perché su ogni disco registrato sono stato ria. La porto a termine. Sti cazzi delle perdite. Questi sono maschi, ma fanno le femmine. Spingono due tasti, aumentano le vendite. Pensa un po', è vero. Io domani non so che sarò. Ma non mi truccano, non mi vestono, mi stressano. Noi stiamo tutti quanti insieme nel salotto. Dice Davide, in questa cena hai messo un botto. E beh, suonare ogni weekend del mese, frate, in nazionale. Ormai quando non sto sul palco non so che cazzo fare. Fare sta musica per te quanto vale. Non posso farmi abbandonare. Non posso restare fermo, devo evolvermi o penso che sta andando male. Nonostante tutto sono qua, sono sempre io che cambio ma restando uguale. Jimmy Dice.